Unit 4. It's Saturday morning in Florence, and at the Hotel Berchieli, Sarah is having breakfast on the terrace. In a moment, she'll be joined by her new colleague, Lorenzo, who's going to accompany her to the wine fair in Greve. Before the first dialogue between Sarah and Lorenzo... Ecco le parole e le espressioni nuove. Here are the new words and phrases. Ecco le parole e le espressioni nuove. Allora... Ascolti l'italiano, poi l'inglese, di nuovo l'italiano e poi ripeta. Cominciamo. Come sta? How are you? Come sta? Colazione. Breakfast. Colazione. Mai. Never. Mai. Non faccio mai colazione. I never have breakfast. Non faccio mai colazione. A volte. Sometimes. A volte. Più tardi. Later. Più tardi. Verso. Around. Verso. Go back now and review that new language again. And when you're confident with it... Cominci la conversazione. Begin with the conversation. Cominci la conversazione.